Capitolo 13. Lettere, fotografie, appunti, cartoline. La scatola di legno che li custodisce non è certo un modello di organizzazione, eppure è sopravvissuta a decine di traslochi. Un caso tecnologico interessante, un esempio di sistema disordinato, ma stabile. Bogdanov l'ha ritrovata in un armadio, dopo lunghe ricerche, e per non perdere tempo se l'è messa sotto braccio senza nemmeno aprirla, ed è uscito di fretta per raggiungere il suo studio. Gli oggetti di una casa sono sottoposti a una forte selezione negativa. Si consumano, si rompono, si perdono. Ogni tanto si decide di buttarli. Nell'ambiente domestico, un barattolo di cianfrusaglie dimenticato chissà dove può sopravvivere meglio di un piatto in pila nella credenza. È più facile stabilire cosa eliminare da un archivio accurato che da un'accozzaglia e anziché sbarazzarsi di tutto il mucchio, senza distinzioni, si finisce per conservarlo in blocco, tanto più indisturbato quanto più è inutile. Come un albero pieno di nodi e rami storti si salva dall'ascia, mentre i taglialegna abbattono i suoi vicini per ricavarne assi e pali da costruzione. Come un uomo, ormai poco vivace, viene lasciato in pace anche dai suoi nemici. Sulla porta, Danny lo attende puntuale. Bogdanov si informa del suo stato di salute, le indica la solita sedia e si accomoda dall'altra parte della scrivania. Solleva il coperchio della scatola e tuffa le dita tra le carte. La fotografia che cerca non tarda ad apparire. Passa in rassegna i volti, si riconosce nell'unico a capo scoperto, con i capelli spettinati dal vento. «Ecco», dice, appoggiando la foto e ruotandola di mezzo giro. «Qui siamo a Capri, in un giorno d'aprile, poco meno di 20 anni fa». Danny si allunga sulla scrivania per vedere meglio. «Non dirmi niente», lo frena, «voglio riconoscerlo da sola». Era uno di quei pomeriggi passati sugli scogli, la filibusta al gran completo, a staccare patelle dalle rocce e mangiarle crude, come ostriche proletarie. In quelle occasioni Gorky si esaltava e sul sentiero del ritorno, sotto le prime stelle, cercava di convincere tutti che le liti nel partito erano tempeste in un samovar. «È questo?» domanda la voce di Danny, mentre il dito sfiorò la foto. «Quello è Shalyapin, un grande cantante», la corresse Bogdanov, «il più grande che abbia mai ascoltato. All'epoca era già famoso, ma bastava accennargli un ritornello e si esibiva ovunque si trovasse». Danny studia le fisionomie ritratte sulla spiaggia. Una voce di basso accompagna Bogdanov indietro nel tempo. «Molte canzoni ho udito in giro per la Russia che mi hanno insegnato gioie e dolori, ma una soltanto mi è rimasta impressa, la canzone dei lavoratori». «Chissà chi sono i due tizi di fianco al cantante. Osservarli a testa in giù non aiuta a riconoscerli. Forse due italiani di passaggio. Quando c'era da cantare, la gente di Capri si univa volentieri alla loro combriccola. Se poi Shalyapin intonava un brano d'opera, anche le barche sciamavano verso riva e di notte, da Villa Blesus, potevi vedere le sigarette che si accendevano nei giardini dei dintorni, mentre Maria Andreeva suonava il piano e lui cantava Dubinushka sulla terrazza. Uno scienziato inglese gli operai aiutò inventando strumenti su strumenti». «Questo qui!» esclama Danny. Il contadino russo lavora però con un bastone e mille tormenti. «È lui?» insiste. Bogdanov gira la foto di 90 gradi. «Quello è Bazarov, uno dei miei migliori amici. Natalia era infermiera nell'ambulatorio di suo padre. È lì che ci siamo conosciuti». «Allora tu devi essere questo», indica Danny. «E Leonid quest'altro, in mezzo a voi due». Bogdanov annuisce. Il gioco è finito. Però qui è molto diverso da come era di solito. La barba non la portava. Se l'era lasciata crescere in quei giorni. E anche il cappello. Vedi come gli sta largo? Non credo fosse suo. Ce li prestavano i pescatori per ripararci dal sole e dal maestrale. Danny si china sulla fotografia fino a sfiorarla col naso. «È sfocato. Se lo incontrassi per strada non lo riconoscerei». «Credo faresti fatica anche con un'immagine più nitida. È passato molto tempo». Danny scruta l'uomo che ha di fronte e il suo gemello fotografico di 20 anni più giovane. «Su una cuna è diverso», dice. I nostri visi non cambiano. Tra un bambino e vecchio, l'unica grossa differenza è l'altezza. Per via delle trasfusioni? Domanda Bogdanov e attende che Danny glielo confermi con un cenno del capo. Lo scambio di sangue che allunga la vita. In Stella Rossa gli alieni socialisti hanno istituti trasfusionali sparsi per il pianeta. Ora sai che faccia aveva Leonid. Bogdanov sventola la foto, ma Danny non appare emozionata. In questi anni me l'ero immaginato diverso, dice, come se le dispiacesse averlo visto. Aveva il volto dell'uomo sulle banconote che mi ha lasciato mia madre. Ma Leonid è questo, la incalza Bogdanov. Danny prende un profondo respiro, come per affrontare un discorso complesso. Tu lo sai come va su Nakun, attacca. I bambini restano a casa fino a 3 anni, poi crescono in colonia, tutti assieme. Per noi, i genitori sono soltanto 2 tra i tanti padri e madri che uno può avere. Nella nostra lingua, mamma e papà non sono 2 nomi, sono 2 aggettivi. Descriviamo così qualsiasi cosa o persona che ci aiuta a crescere e ci fa sentire amati. La casa dove abiti può essere la tua casa mamma, e il fiume lì vicino, dove vai a pensare quando sei triste, può essere il tuo fiume papà. Quindi io ho avuto tanti padri, anche senza un genitore papà. Quando quelli dei miei compagni li venivano a trovare, io andavo a sedermi sotto il mio albero papà, oppure tiravo fuori la banconota da 500 rubli e raccontavo le giornate al mio papà immaginario. Che motivo avrei di sostituirlo adesso? L'analisi linguistica lascia Bogdanov a bocca aperta. Leonid non gli ha mai raccontato nulla del genere e di certo lui non l'ha mai scritto. Deve essere un'elaborazione originale di Danny, basata sul suo bisogno di sostituire i genitori con altre presenze. Nakun l'aiuta a lenire il dolore. Assecondarla non significa cedere alla sua follia, ma attenuare la sua sofferenza. Leonid mi raccontò che le vostre colonie per bambini sono gli unici luoghi dove si obblighi qualcuno a fare ciò che non vuole. Bogdanov si interrompe. Davvero quel particolare glielo raccontò Leonid? O fu lui stesso a metterlo nel romanzo? Non sa rispondere. Ma non per colpa degli anni trascorsi. È impossibile risalire alla sorgente di una storia, come un fiume che nasce dall'incontro di molti ruscelli e solo per convenzione si può stabilire qual è il suo corso principale. Chi racconta non è mai soltanto un narratore. Anche a lui capita di ascoltare. Chi adesso ascolta, più tardi narrerà. La storia passa di bocca in bocca, non si può distinguere il contributo di ciascuno. E anche quando si tratta di un libro, quanto della sua storia è già nelle pagine e quanto viene dal lettore? La materia allo stato puro non esiste. Ogni parola di un testo è in relazione con altre parole, contenute in altri libri e in altre menti. Leonid ha letto i suoi scritti, poi li ha sognati e gli ha raccontato quel che ha visto. Quindi il racconto è diventato un romanzo e ora una lettrice lo espande ancora. Impossibile stabilire chi sia l'autore di un simile intreccio. «Ho perso il filo», si scusa Bogdanov. «Cosa stavo dicendo?» «Che nelle nostre colonie i bambini vengono obbligati...» «Ah, ecco, sì! Il motivo, diceva Leonid, ma fu proprio lui a dirlo, il motivo è che gli individui durante la crescita ripercorrono le tappe evolutive della loro specie. I piccoli nakuniani sono individualisti, così come lo erano i nakuniani 200 anni prima, e con fatica si liberano del difetto, così come i nakuniani se ne sono liberati. Perché non succede lo stesso con la famiglia? Da piccoli si cercano mamma e papà, e crescendo si matura una mentalità diversa? Danny si gira verso la finestra. Il sole è ancora nascosto dietro i palazzi e gli alberi del cortile, ma la giornata non si annuncia radiosa. Nel passato, spiega la ragazza, abbiamo avuto diversi modi di organizzare la famiglia. Però l'idea che padre e madre siano un tipo di legame e non 2 persone uniche ce l'abbiamo da sempre. Fa parte della nostra lingua. Se non fosse così, credo sarebbe più faticoso per i nostri bambini accettare di crescere lontano dai genitori. All'altro capo della scrivania, Bogdanov si alza. L'allegoria marziana continua a sorprenderlo. Parlare della Stella Rossa è sempre un modo per parlare della Terra e capirla meglio. Passeggia per la stanza, ripone 2 libri sui loro scaffali, finisce anche lui per osservare il mondo attraverso il vetro. I cristalli di brina sul tronco di un tiglio sono già dispacci d'inverno. Ma il tempo è giunto, il popolo combatte, la schiena sgravata dall'antico fardello, e contro le schiere nemiche abbatte quel bastone mutato in randello. «Questa è Natalia, vero?» domanda Danny. Bogdanov ritorna al tavolo e mette a fuoco l'immagine. «Sì, è lei, mentre la donna che le sta vicino è Maria Andreeva, la compagna di Gorky, questo con i baffi, un grande scrittore. Subito dietro c'è il figlio, Maxim Alexievich, nato dalla prima moglie. Questo...» esitò. «Questo dovrebbe essere Ladishnikov, un editore che pubblicava i nostri scritti a Berlino. Questo, con la bombetta, è Lenin. Proprio allora, lui e io abbiamo rotto i rapporti». Danny raccoglie la foto di gruppo. «A guardarvi non si direbbe. Sembrate felici». L'osservazione addolcisce il ricordo. L'autoindulgenza è una malattia senile. «Credo che lo fossimo, in effetti. Avevamo deciso di lasciare sul continente i nostri dissidi. In compenso, ci sfidavamo in un gioco violento, gli scacchi».